2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 24 gennaio 2009, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024 e radio24.it. Vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet www.radio24.it. Naturalmente tutte le informazioni sono nelle pagine di 2024, quindi nella sezione programmi scegliete 2024, scritto in cifra 2024. E come ogni settimana vi ricordo di abbonarvi, se potete, se avete la possibilità di avere una buona connessione ad internet, di abbonarvi al nostro servizio gratuito podcast. È tutto molto semplice, ci sono le informazioni online oppure scriveteci una email e vi suggeriremo un percorso per riascoltarci quando volete, in qualsiasi condizione, soprattutto con lo strumento che preferite, un computer, un lettore MP3, eccetera, eccetera. Questa settimana abbiamo letto e ascoltato anche a Radio 24 molti numeri relativi alle trimestrali di parecchie aziende del settore tecnologico. Beh, molte non sono buone notizie, non ci soffermeremo molto visto che appunto ne abbiamo parlato questa settimana su Radio 24. Vale la pena però di ricordare che i successi di mercato di Google e di Apple hanno per ora salvato dal punto di vista finanziario queste due aziende, che sono tra i grandi nomi le uniche a sorridere assieme ad IBM, che come sapete si rivolge solamente al segmento business, che si è spostata e si occupa prevalentemente di software e servizi, quindi non più la parte hardware. In particolar modo, a proposito di queste tre aziende, Apple continua a vendere molti iPod, vanno molto bene anche le vendite di iPhone e di Mac. Per l'azienda della mela quello che si è chiuso è il migliore utile trimestrale della storia dell'azienda, quindi un momento di difficoltà per l'economia, soprattutto per quella americana, e la Apple estrae dal cilindro questo trimestre. Vanno bene le cose anche per Google, che stupisce gli esperti di mercato riuscendo a mettere a segno risultati migliori delle attese grazie ad un aumento della raccolta pubblicitaria online, e da qui che arriva il business di Google. Risultato tra l'altro ancora più brillante se si pensa che, secondo alcune recenti analisi, il mercato del cosiddetto search advertising, cioè la pubblicità correlata alle parole chiave inserite nei motori di ricerca, è calato, questo mercato è calato nell'ultimo trimestre del 2008, non di molto, ma comunque insomma un piccolo segnale di cedimento. Buoni i risultati anche, diciamo, per IBM, cui i profitti crescono del 12%, premiando quindi la scelta di spostarsi prevalentemente sul software e sui servizi di valore. Ma le buone notizie finiscono qua. Perché? Allora, iniziamo da Microsoft. Questo è l'annuncio più importante forse della settimana. Ha annunciato il primo maxi piano di licenziamenti nella sua storia. Una storia che alcuni ricorderanno è iniziata quasi 34 anni fa, nell'aprile del 1975. Finora non è mai stato necessario licenziare, pensate, 5.000 persone nei prossimi 18 mesi. Qualcuno anche in Italia, anche se per il nostro paese l'impatto dovrebbe essere estremamente contenuto. Attenzione però a credere che Microsoft abbia i conti in rosso, tutt'altro, l'azienda continua ad essere comunque in salute, a macinare utili, ma meno rispetto al passato, quindi sapete che quando le cose cominciano a prendere una piega diversa molti si allarmano, soprattutto sui mercati finanziari. Nell'ultimo trimestre l'utile, pensate, ha superato comunque i 4 miliardi di dollari, ma ha registrato un calo dell'11%. Cosa va male e perché anche Microsoft è stata colpita da quella che ormai tutti chiamano comunemente la crisi? There's a variety of reasons for that, but the most significant is there is a worldwide slowdown in the adoption of new PC hardware. Quello che sentite è Neil MacDonald, un analista di Gartner che abbiamo sentito questa settimana, che ci spiega come sia stata soprattutto la divisione Windows a soffrire, colpita dal calo delle vendite di computer e anche dall'insuccesso del sistema operativo Vista. And there are many people that are willing to wait and skip Windows Vista and wait for Windows 7. which is expected in the second half of this year. McDonald dice che ci sono molte persone che stanno aspettando Windows 7, che quindi evitano di installare Vista e passeranno da XP direttamente a Windows 7, che è atteso per la seconda parte di quest'anno. One more factor that's worth mentioning is netbooks. On netbooks, there's good news and bad news for Microsoft. Un ultimo fattore che si può citare, dice sempre McDonald, è il successo dei netbook, questi piccoli computer che sono più leggeri, anche meno potenti, ma meno costosi dei computer portatili. Per Microsoft ci sono buone e cattive notizie. The good news is the growth in netbooks is increasing. Most of them ship with Windows. La buona notizia è che le vendite di questi prodotti vanno molto bene, stanno crescendo e molti hanno un sistema operativo Windows. The bad news is it's Windows XP. La cattiva notizia è che il sistema operativo Windows è XP. Su questo ci si fanno meno soldi perché il vecchio sistema operativo su questi piccoli computer che sono meno potenti dei classici notebook non gira Vista e quindi questo è un altro fattore di criticità per la Microsoft. La conferma che tutto il settore dei PC soffre, ci sono stati gli annunci di Intel, annunci che riguardano sia un taglio, o meglio una chiusura di alcune fabbriche in Malesia, nelle Filippine, e anche un'ultima fabbrica che esisteva nella Silicon Valley, quindi non produrrà più Intel microprocessori in Silicon Valley, ma gli annunci non si limitano a questo, è stato annunciato anche un taglio di personale. Anche Nokia prende atto del deterioramento del mercato, registra utili in calo del 60% nell'ultimo trimestre e prevede una frenata delle vendite di telefonini nel 2009 del 10%. Anche in questo caso parliamo comunque di un'azienda sana che continua a fare utili e non solo punta a consolidare la prima posizione nella classifica mondiale di vendite di telefonini, ma pensa addirittura di poter approfittare delle difficoltà dei concorrenti per incrementarla. LG e Sony Ericsson hanno infatti presentato conti in rosso. Motorola ha annunciato nuovi licenziamenti, sappiamo che è in seria difficoltà da parecchi mesi, di questo parliamo già da qualche puntata. Tagli anche per Ericsson, il più grande produttore di reti di telefonia mobile, che ha messo a segno comunque buoni risultati nel trimestre, ma ha annunciato un piano di licenziamenti di 5.000 persone. Dalla parte opposta del globo c'è cioè un'altra notizia che riguarda la giapponese Sony, che si avvia a chiudere l'esercizio fiscale a fine marzo con la perdita operativa più pesante degli ultimi 14 anni. Diamo conto anche di alcuni tagli annunciati da Logitech, che parla di 600 persone e 900 sono i posti di lavoro che verranno persi alla Plantronics. Ottimizzazione dei costi e delle risorse anche in Italia per Tiscali, le cui trattative per la cessione delle attività nel Regno Unito sono ancora in corso. Per Tiscali si parla di 250 persone che rimarranno senza occupazione. Queste le notizie che riguardano il momento critico anche per il settore dell'elettronica di consumo, della telefonia mobile, dell'IT, quindi dei computer, dei servizi collegati, del software in generale. In questo quadro difficile c'è comunque chi ha soldi da investire, ci sono sempre grandi investitori in giro per il mondo. La 4info è scritto così, cioè il più grande erogatore di contenuti via SMS del Nord America, una società californiana che ha sede a San Mateo, ha raccolto 40 milioni di dollari per allargare il proprio business. 40 milioni di dollari. Un segmento di crescita molto interessante è quello della pubblicità via SMS o sui siti web dedicati ai telefonini. A proposito di telefonini, ma soprattutto di smartphone, una notizia che riguarda il G1, il telefono di Google realizzato da HTC su piattaforma Android, mentre si parla già di G2, quindi dell'evoluzione, però il telefono per il momento è disponibile solo in Gran Bretagna e Stati Uniti, parliamo del G1, è stata annunciata questa settimana l'arrivo del G1 anche in altri paesi europei, quindi non solo la Gran Bretagna, secondo quanto ha annunciato da T-Mobile, quindi l'operatore mobile della Deutsche Telekom. Il G1 sarà nei negozi olandesi, cechi e austriaci il 30 gennaio, quindi tra qualche giorno, e sarà venduto in Germania dal 2 febbraio, arriverà poi in Polonia all'inizio di marzo. Il G1 è uno dei più temuti concorrenti dell'iPhone, uno smartphone con interfaccia touchscreen e anche una tastiera a scomparsa. Funziona molto bene, un prodotto che ha avuto un buon successo negli Stati Uniti, vedremo poi quale sarà l'impatto sul mercato europeo. Non esistono notizie per quanto riguarda un possibile ed eventuale arrivo in Italia. Questa settimana si è tenuta a Roma la quarta conferenza nazionale sulla TV digitale terrestre. Si continua a parlare di questa tecnologia, ci sono molti investimenti, una tecnologia che più volte abbiamo ricordato essere nata purtroppo già vecchia e che dovrebbe essere l'unico modo comunque di diffusione dei segnali televisivi terrestri a partire dal 2012. C'è un piano che è stato tra l'altro ritoccato da qualche giorno, c'è, lo ricordiamo, una regione che è già all digital, quindi completamente digitalizzata, cioè la Sardegna. Entro tre anni, quindi entro il 2012, ci saranno graduali spegnimenti di tutte le regioni, in tutte le regioni italiane, dei segnali analogici per poi passare solo al digitale. Quest'anno, a partire da settembre, sarà il turno di Valle d'Aosta, poi le province di Torino e Cuneo, in ottobre-novembre Trentino Alto Adige e Lazio, infine la Campania a dicembre. Rimangono sul tavolo molte domande di carattere tecnico relative al mercato, ai rischi di concentrazione. Ne ha scritto molto chiaramente Marco Mele sul Sole 24 Ore questa settimana. Trovate tutti i suoi pezzi online sul sole24ore.com se siete interessati al tema, all'evoluzione della TV. Sono pezzi molto interessanti. Nel frattempo, mentre si parla di digitale terrestre, nasce l'associazione per la IPTV, la TV via internet, che è, come molti dicono, come anche noi diciamo, la TV del futuro. Bisognerebbe mettersi in testa, ma tutti dovrebbero farlo, che la piattaforma di diffusione e distribuzione di tutti i contenuti sarà internet, questa e solo questa. Per questo diciamo da tempo che, ad esempio, il digitale terrestre è un sistema già vecchio. Ecco che cosa ha detto durante la conferenza Franco Bernabè, che è l'amministratore delegato di Telecom Italia, e ricordiamo, Telecom Italia è proprietaria della 7. Devo dire qui molto chiaramente che noi non abbiamo la vocazione del broadcaster, e noi abbiamo questa televisione perché l'abbiamo ereditata, la gestiamo, abbiamo un nostro pubblico di alta qualità che vogliamo mantenere, ma noi non abbiamo la vocazione di fare concorrenza nel settore del broadcasting. Perché? Perché noi crediamo che la televisione si stia evolvendo, e se uno è andato a vedere l'offerta che c'è stata a Las Vegas adesso, vede che il digitale terrestre è una fase temporanea di un processo che sta crescendo e sta arricchendosi dal punto di vista tecnologico in modo rilevante. I nuovi televisori che sono stati presentati a Las Vegas sono televisori già fortemente integrati col sistema dell'IPTV. Molti hanno la presa Ethernet, molti hanno preso il concetto dell'iPhone e quindi hanno applicato i widgets ai televisori. Quindi cambia completamente il senso del televisore. E noi che abbiamo una vocazione tecnologica vogliamo essere dei grandi fornitori di tecnologia, dei grandi fornitori di piattaforme tecnologiche, e cioè la piattaforma dell'IPTV, che certamente è il futuro della televisione. Finalmente un amministratore delegato di una grande azienda tecnologicamente avanzata come deve essere Telecom Italia, che parla anche in modo moderno di widget. Ma sulla qualità di Franco Bernabè non ci sono certo dubbi, quindi ci sono anche molte speranze sulla sua capacità di trasformare questa azienda. Bernabè ha fatto riferimento a Las Vegas, cioè al Consumer Electronics Show, di cui abbiamo parlato ampiamente a 2024, quindi gli ascoltatori fedeli di 2024 dovrebbero sapere tutto sulle TV che oramai sono appunto capaci di collegarsi alla rete internet. Bernabè ha parlato di IPTV, che, come appunto diciamo anche noi, è la TV del futuro, e bisognerebbe già guardare verso quella direzione. Ma anche su questo punto ci sono molte domande che attendono una risposta. Ad esempio, dovremmo avere 4 decoder diversi se vogliamo essere abbonati a 4 servizi di IP diversi? Beh, speriamo che le cose cambino e si vada verso uno standard condiviso anche in questo campo. Due mila Prima di presentarvi il primo ospite di questa settimana, di questa puntata, un'ultima notizia della settimana. Silvio Berlusconi pochi giorni fa ha ribadito l'intenzione del governo di spingere verso la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Questa è una buona notizia. Entro il 2012 ogni cittadino sarà dotato di casella di posta elettronica per comunicare con la pubblica amministrazione. Dicevo, questi sono principi assolutamente condivisibili, è una buona notizia. Bisognerà poi vedere come queste cose verranno fatte, sperando che si segua la strada dei sistemi aperti. Rimangono poi alcuni problemi irrisolti. Questo è un paese dove la penetrazione di internet è più bassa rispetto alla media dei paesi industrializzati, quelli con i quali facciamo spesso confronti, e dove solo la metà delle famiglie ha un PC, quindi ha un computer. Inutile quindi dare la casella di posta elettronica a tutti se poi uno non ha gli strumenti per usarla. Bisognerebbe proseguire su strade parallele, mentre vediamo che per colmare il digital divide ben poco si sta facendo. Una cosa che diciamo spesso al 2024 è che uno dei problemi dei prossimi anni sarà quello di estendere la rete, perché ci sarà un nuovo disagio, quello di non avere la possibilità di collegarsi ad internet, e non sarà solo un disagio sociale, sarà proprio, come del resto già oggi accade, un problema di competitività. Magari un'azienda in una zona dove non esiste una buona copertura internet ha dei seri problemi per comunicare con il mondo. Dunque, oggi parliamo di sistemi di messaggistica in tempo reale. A proposito di aziende, questi sono sistemi che spesso vengono visti per divertimento, per divertirsi, ma non sono solamente sistemi per divertirsi, sono anche sistemi efficaci per comunicare magari con propri clienti in giro per il mondo. I sistemi di messaggistica in tempo reale si chiamano anche Instant Messenger. Questa settimana una panoramica, qualche dato in più su questi strumenti ce l'ha data una ricerca realizzata da Nexplora per Windows Live, quindi la piattaforma della Microsoft. Saluto Luca Colombo, che è responsabile marketing dei servizi online di Microsoft Italia. Colombo, benvenuto a 2024. Grazie, buongiorno a tutti. Voi naturalmente avete come sistema di messaggistica in tempo reale uno dei prodotti di punta sul mercato, il leader del mercato. Questo è sicuramente uno dei vostri grandi successi, anche storici. Prima di raccontare qualche numero, per chi si fosse perso qualche puntata o per chi ancora non utilizza un sistema di messaggistica in tempo reale e magari utilizza la posta elettronica, internet, di cosa stiamo parlando? Che cos'è un instant messenger? Uno strumento di instant messaging è sostanzialmente un'applicazione che vive o che lavora attraverso la rete e che permette di comunicare in tempo reale due o più persone. Tipicamente viene quasi in sostituzione del telefono, è considerato proprio una via di mezzo tra la posta elettronica, considerata come comunicazione asincrona, ossia mando un messaggio e aspetto che qualcuno mi risponda, e il telefono, comunicazione sincrona, dove la conversazione deve avvenire in maniera concordata tra le parti. Bene, instant messaging è proprio una via di mezzo tra queste due soluzioni, perché permette di avere una comunicazione diretta, immediata e sincronizzata, ma altrettanto poter attendere le tempistiche dell'interlocutore che magari in quel momento sta facendo qualcos'altro. Quindi instant messaging è nato da diversi anni e ha questo come obiettivo: posizionarsi proprio tra telefono e posta elettronica. Quindi parliamo di un sistema che non è nuovo. No, assolutamente. Ci sono diversi prodotti partiti probabilmente anche prima del 2000, il nostro prodotto che è Windows Live Messenger è stato lanciato in Italia per esempio nel settembre del 99, si è evoluto nel tempo, però per esempio rispetto ad altre nazioni che hanno avuto successo in questa applicazione già dal 2002-2003, l'Italia ha visto una sua esplosione a partire dal 2005-2006, quindi un po' in ritardo, però la nascita vera e propria del prodotto si è vista, di Windows Live Messenger nel 99. Recentemente un amministratore delegato di una grande azienda mi diceva, noi quando parliamo di comunicazione interna abbiamo seri problemi, perché c'è gente che ancora fatica ad utilizzare la posta elettronica, c'è una buona parte della popolazione aziendale che utilizza senza problemi la posta elettronica, ma soprattutto i giovani sono abituati a utilizzare i sistemi di messaggistica in tempo reale. Per molti di loro la posta elettronica è troppo lenta, in molti casi scomoda. Dalla ricerca che voi avete commissionato nei giorni scorsi, l'avete presentata, questo dato è vero? Cioè sono soprattutto i giovani che utilizzano l'Instant Messenger? Beh, sicuramente le fasce giovani sono quelle che stanno facendo crescere maggiormente la popolazione in Italia, le fasce 16-24 sono quelle che stanno dando l'impulso alla crescita del servizio, dell'utilizzo di questo genere di servizi, in particolare appunto crescono del 6% maschi 16-24 e rimanendo, se vogliamo, a un tema anche di lavoro, sebbene siano i giovani che fanno crescere la popolazione di Instant Messaging in Italia, altrettanto sta aumentando in maniera significativa la penetrazione di tali strumenti in ambito lavorativo. Infatti dalla ricerca emerge che il 37% delle persone lo utilizza abitualmente dal luogo di lavoro e, essendo questa ricerca il secondo ciclo rispetto al primo che è stato effettuato circa 6 mesi fa, questo dato confrontato a sei mesi di distanza vede una crescita di tale metrica del 9%, quindi l'Instant Messaging è sicuramente partito da un consumo prevalentemente domestico, quindi attraverso i giovani e le famiglie, comunque sta avendo sempre più un ruolo importante anche presso le aziende, che l'hanno visto con un certo scetticismo, ma che sempre di più ne percepiscono il valore nella comunicazione tra dipendenti, tra la comunicazione non soltanto tra colleghi ma anche verso fornitori esterni, partner, clienti. Quindi per noi è importante evidenziare anche questo dato, perché sempre di più diventa uno strumento di comunicazione, come dicevo prima, integrato a quelli già ormai consolidati quali posta elettronica e il telefono. Anche un servizio come l'Instant Messenger, come altri, si sta spostando verso il mondo mobile, il mondo della telefonia mobile. Nonostante gli alti costi ancora della connettività in mobilità, c'è chi utilizza l'Instant Messenger sul telefonino? Diciamo che l'esperienza che noi abbiamo maturato nelle altre nazioni e che si sta ripetendo anche in Italia, che innanzitutto accordi con operatori sono fondamentali per aumentare l'adozione di tale strumento. Infatti da oramai 6 mesi a questa parte abbiamo accordi con tutti quanti gli operatori italiani mobile, e in più abbiamo anche un accordo con MTV Mobile, che è un MVNO che ha lanciato la sua offerta. Un operatore virtuale, che ha lanciato la sua offerta basata su musica e Instant Messaging. Quindi innanzitutto la forte interazione con gli operatori è elemento fondamentale per dare stimolo all'adozione su cellulari. Chiaramente l'adozione poi su web spinge le persone che hanno un utilizzo assiduo di cellulare a voler impiegare l'Instant Messaging anche su cellulare, e in particolare le fasce giovani vogliono, anzi utilizzano l'Instant Messaging quasi in sostituzione degli SMS. Quindi quello che noi vediamo sicuramente è un aumento della penetrazione degli utilizzatori di Instant Messaging su cellulare. Le cifre sono ancora ridotte rispetto a quello che è l'utilizzo web, stiamo parlando di tra 1 e 2 milioni di utenti che utilizzano Instant Messaging su dispositivi mobili ogni mese. Il principale freno, come è stato detto prima, ad oggi sono ancora i prezzi. Infatti circa il 59% delle persone intervistate ha dichiarato l'intenzione ad utilizzare l'Instant Messaging su cellulare se non ci fossero barriere di prezzo. Vediamo la messaggistica istantanea come un fenomeno sociale che ha impatti sia sul mondo lavorativo, come avevo detto prima, ma soprattutto anche nel mondo della comunicazione cellulare, in particolare in Italia, che è un mercato abbastanza evoluto in questo senso. Molti servizi oggi si stanno lentamente, perché poi spesso ci facciamo travolgere dall'entusiasmo e dai numeri, si stanno lentamente spostando sempre più verso il web, quindi non più servizi solo erogati sul nostro computer con un programma, ma servizi che noi utilizziamo quando siamo su internet, quindi su un'interfaccia, banalmente su un navigatore, Internet Explorer, Firefox, eccetera, eccetera. Ecco, in questo scenario, come si sta spostando il mondo degli instant messenger, visto che il vostro, ma anche altri, sono sistemi che prevedono un programmino scaricato sul nostro computer, un client sul nostro computer? Certo, diciamo che quello che noi rileviamo è comunque una netta preferenza da parte degli utenti ad utilizzare soluzioni che prevedano il client sul proprio PC. Questo per quale ragione? Perché comunque permette di avere un'esperienza utente, un utilizzo dello strumento molto più ricca e molto più fruibile rispetto alle soluzioni puramente basate su una pagina HTML o sul browser. Sì, banalmente mi verrebbe da dire è meglio. Sì, semplicemente. infatti, noi abbiamo comunque la duplice offerta, quella client e quella web, però ad oggi l'utente, vuoi per il tasso di utilizzo, vuoi per i feedback che vengono trasmessi in ricerche che facciamo in maniera spontanea attraverso i feedback form che riceviamo, manifesta totale preferenza per la soluzione client rispetto alla soluzione web. Un domani riusciremo, la preferenza degli utenti sarà per l'adozione totale di servizi web, lo vedremo. Ad oggi questo trend non risulta essere chiaro e netto, per cui a nostro giudizio l'esperienza basata su un software, vuoi su il PC, ma vuoi anche sul cellulare, perché ricordiamoci che anche sul cellulare possiamo avere una duplice esperienza, vuoi browsing, ma vuoi anche con un client, sempre per instant messaging, vede la netta vittoria della soluzione software. Sì, sì. Quanti sono gli utenti della vostra soluzione Messenger? In Italia abbiamo circa 13 milioni di utenti attivi ogni mese. Nel mondo? Nel mondo sono circa 300 milioni di utenti attivi. Una base installata piuttosto interessante da molti punti di vista, non ultimo quello pubblicitario, perché la pubblicità, anche se in maniera discreta, si infila anche negli instant messenger. Assolutamente sì, essendo questo un servizio gratuito non c'è nulla di Messenger che oggi preveda il pagamento di alcuna fee da parte del consumatore, essendo questo un servizio che richiede, che ha necessità per vivere di costi, di sostenere dei costi, l'unico modo per sostenere questi costi in questo momento è attraverso introiti pubblicitari. Infatti Messenger offre alcune posizioni per advertiser visibili, alcuni meno visibili. Dunque, una cosa interessante è, vista la base installata di cui abbiamo appena detto, come tutto ciò si integra con gli altri sistemi web, tutti i sistemi online di Microsoft? In generale tutta la famiglia Windows Live nasce con una filosofia di forte integrazione. Il set di prodotti è abbastanza ampio ed è abbastanza chiara ed evidente l'integrazione che c'è tra, per esempio, Messenger e Hotmail. Dal client di Messenger io posso accedere attraverso un semplice pulsante alla propria casella di posta elettronica Hotmail, accedendo voi attraverso un client a sua volta di posta elettronica, vuoi attraverso la pagina web. Altrettanto attraverso Hotmail posso, nella nuova versione di Windows Live, accedere a Messenger senza nemmeno avere il client, cioè la possibilità di fare instant messaging direttamente da Hotmail è previsto con la versione che è stata rilasciata da qualche giorno a questa parte, oppure accedere alla propria piattaforma di blog, che è Windows Live Spaces, direttamente da o Messenger o Hotmail. Quindi la forte integrazione di tutti questi servizi è un po' una filosofia che percorre l'evoluzione di questo prodotto già da diverse versioni a questa parte, ed è un elemento che sicuramente dà soddisfazione agli utenti che utilizzano assiduamente i nostri servizi, è un elemento che ci differenzia rispetto alla concorrenza. A proposito di servizi online in generale, c'è una tendenza che mi sembra interessante sul mercato, che naturalmente riguarda anche voi, quella di cercare di offrire ai consumatori, ai navigatori, ai clienti, chiamiamoli come vogliamo, offrire un unico spazio all'interno del quale gestire la propria presenza online. Non so se sono stato chiaro, o comunque approfitto della presenza di Luca Colombo per spiegarci questo concetto, questa tendenza. Sì, se ho inteso bene la domanda, sostanzialmente noi cerchiamo, per esempio con una nuova versione di Windows Live, di accedere, consentiamo agli utenti di accedere ai propri servizi di social networking, piuttosto che di microblogging, piuttosto che servizi di foto, faccio dei nomi e dei cognomi, Facebook, piuttosto che Flickr, piuttosto che Photobucket, piuttosto che Twitter, accedere a questi servizi monitorando le modifiche fatte dai propri amici e dai propri contatti direttamente da uno o più prodotti di Windows Live. Faccio un esempio concreto: un utente Messenger con la nuova versione scaricata da qualche settimana a questa parte ha la possibilità di vedere la propria lista di contatti, di vedere alcune informazioni legate alla posta elettronica e quant'altro, ma c'è un nuovo componente chiamato novità. Questo componente novità in rotazione mette in evidenza alcuni temi quali: il mio amico Pinco Pallino ha modificato la sua immagine su Facebook, piuttosto che l'amico di Luca Colombo ha aggiunto un proprio post su Twitter. Tutte queste novità sono ovviamente linkate e cliccabili, e quindi uno può, una volta osservato qualcosa di proprio interesse, andare direttamente vuoi su Flickr, vuoi su Facebook, vuoi su Twitter, per osservare con maggiore dettaglio e approfondimento quelle novità che sono state segnalate direttamente in Messenger. Quindi Windows Live, vuoi su Messenger, vuoi su Hotmail e su altre parti dei servizi, permettono di monitorare e tenere sotto controllo quelle che sono le evoluzioni e i cambiamenti fatti dai propri contatti / amici, per poi approfondirli direttamente verso siti di terze parti. Quindi vuole essere un po' una sorta di hub verso tutto il mondo del social networking, che si sta sempre di più evolvendo, non includendo le persone all'interno di Windows Live, ma offrendo Windows Live come piattaforma di lancio verso queste terze parti. Beh sì, il concetto di hub, visto che negli ultimi mesi si è parlato spesso di aeroporti e di hub, speriamo insomma sia stato compreso dai più. Ringrazio Luca Colombo per essere stato con noi, grazie e buon lavoro, a presto. Grazie a voi, arrivederci. E noi ci fermiamo per qualche istante, siete all'ascolto di 2024, grazie a chi ci ascolta in podcast, quindi scarica il file della nostra trasmissione via internet e se lo riascolta come preferisce sul computer, sul lettore di file MP3. Anzi, sarebbe interessante capire quali sono le modalità e soprattutto quando preferite riascoltarci, insomma commentate l'utilizzo che fate del podcast. Seguiteci nel pomeriggio del sabato di Radio 24, questo è 2024, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, trovate tutto anche online, il nostro programma via podcast. Sono sempre più le persone che settimana dopo settimana si abbonano al nostro servizio e quindi se ancora non l'avete fatto vi consigliamo di farlo, è un servizio gratuito ed è una nuova modalità per erogare contenuti audio per quanto riguarda la radio oppure contenuti video per quanto riguarda qualsiasi altra piattaforma video, insomma un nuovo modo di fare la radio, di distribuire contenuti in generale. Tra poco parliamo di una novità assolutamente interessante che riguarda il mondo della rete, della telefonia. Le due cose vanno sempre più spesso di pari passo. Prima vorrei ricordarvi che questa settimana, il 28 e il 29 di gennaio, arriva a Bari, alla fiera di Bari, SMAO. Come sapete, SMAO ha innovato e si è trasformato in un appuntamento dedicato prevalentemente al mondo del business, con una serie di incontri che sono poi la parte fondamentale di questa nuova idea che sta dietro a SMAO, che abbiamo seguito anche 2024. Quindi potete andare sul sito internet di SMAO, smao.it, e vedere, trovare magari l'incontro che più vi interessa. I temi sono tantissimi, tutti i temi che in qualche modo sono legati al mondo della tecnologia e delle imprese che grazie alla tecnologia si evolvono, si trasformano e diventano sempre più competitive, temi di cui poi parleremo anche nelle prossime puntate di 2024. Dunque, vi dicevo, è stato presentato una novità, un servizio, un'idea nuova per far evolvere il VoIP. Per parlare di questo è con noi Alessandro Longo, che saluto, bentornato 2024. Grazie, saluto tutti. Dunque, dicevo che c'è una notizia che riguarda il VoIP, la telefonia VoIP. Possiamo dire che in qualche modo ha raggiunto carattere di extraterritorialità. Spieghiamo meglio di che cosa si tratta. In sostanza è stato approvato un numero internazionale, un prefisso internazionale per il VoIP, cioè così come c'è il più 39 per telefonare in Italia, adesso le autorità internazionali della telefonia hanno varato l'883 per identificare gli utenti che utilizzino il VoIP. Allora, diciamo due parole sul VoIP. Ricordiamo che oggi noi siamo ancora purtroppo abituati a telefonare con sistemi collegati a numeri di telefono geografici che identificano un'area geografica, oppure che identificano un particolare sistema. Ad esempio, all'interno dell'Italia ci sono i numeri geografici relativi alle province o ad alcune aree del paese e numeri relativi alla telefonia mobile, ma anche i numeri della telefonia mobile sono di fatto numeri geografici, perché ci sono i numeri italiani, i numeri inglesi, eccetera eccetera. Basterebbe un collegamento ad internet per cancellare qualsiasi confine geografico e rendere possibile la telefonata ovunque siamo nel mondo. Questo è un po' quello che garantisce il VoIP. Alessandro, ci dici qualche cosa in più sul VoIP, cioè quali sono i vantaggi, qual è il principio fondamentale su cui si basa questa tecnologia e soprattutto la modalità con cui poi si telefona attraverso i servizi VoIP? Beh, è noto che per VoIP comunemente si intende fare una telefonata attraverso la propria linea internet veloce, e solitamente in Italia è la DSL. Possiamo usare il computer con un microfono, questo è il modo più banale e povero, oppure usare un telefono speciale collegato al nostro router, oppure utilizzare un telefono normale collegato a un router speciale adatto per il VoIP. Insomma, ci sono vari modi, e il vantaggio principale è quello del risparmio, chiaramente, perché le chiamate verso altri utenti che utilizzano il VoIP sono gratuite, e quelle internazionali a numeri telefonici internazionali sono invece molto più economiche rispetto alle tariffe banalmente Telecom. Questo risparmio è esaltato dalla novità dell'883, perché adesso è possibile telefonare a utenti di servizi VoIP diversi dal proprio, purché partner di questa iniziativa, appunto telefonando il numero 883 come se si chiamasse un qualsiasi utente di un servizio di instant messaging, però identificato con un numero invece che con un account. Senti, noi stiamo vedendo una diffusione dei sistemi VoIP soprattutto nelle aziende, o comunque spesso il sistema VoIP è quello che noi non vediamo come utenti finali, sia che ci troviamo a casa che ci troviamo in azienda. È la tecnologia che si sta diffondendo. La modalità per il consumatore finale viene spesso nascosta ancora dietro questi numeri geografici. Potremmo dire che dal punto di vista tecnologico non ci sarebbe più ragione dell'esistenza dei numeri geografici, a parte per i servizi di emergenza. Forse in questo caso possiamo ancora dire che i numeri geografici hanno un loro utilizzo, però basterebbe avere un collegamento ad internet, punto. Dopodiché possiamo utilizzare internet per tutto, anche per le comunicazioni. Beh sì, certo, se tutti avessero internet non ci sarebbe bisogno di utilizzare i numeri geografici per parlare tra di noi, sarebbe molto più economico, molto più efficiente e anche sarebbe possibile intuire degli usi più moderni della comunicazione telefonica, che ne so, nel telefono c'è anche la lista dei contatti con le faccine, oppure la loro foto, il loro video. Cioè, è anche possibile immaginare uno scenario futuro che però passa da una esigenza, cioè che tutti abbiano internet per chiamare. Adesso purtroppo ancora non è così. C'è, diciamo, anche un po' di resistenza da parte delle aziende di telecomunicazioni, immagino. Beh, non c'è nessun interesse da parte dei padroni del vapore, come si dice, cioè insomma di chi ha il possesso della rete tradizionale e delle centrali telefoniche. Non parlo solo di Telecom, ma di tutti gli operatori tradizionali che hanno una centrale. Non c'è nessun interesse da parte loro di sostenere una tecnologia che fa meno di quelle centrali, di quel vantaggio competitivo dato appunto dall'avere infrastrutture fisiche sul territorio. La novità di cui abbiamo parlato all'inizio della nostra chiacchierata si chiama INUM, qui International Numbers, questo è il significato. Lo slogan è molto efficace, molto simpatico, è presenza locale per relazioni internazionali. Quindi un unico prefisso per tutto il mondo per questi numeri. E quindi poi, tra l'altro, il vantaggio di portarsi quando ci spostiamo, magari con il nostro computer collegato ad internet, questo numero di telefono. Senti, a chi potrebbe chiedere come faccio per avere un numero di questo genere, ricordiamo appunto che bisogna essere prima di tutto collegati ad internet, dopodiché si può avere un numero di questo genere, ma in Italia esistono già degli operatori che offrono questa novità, una novità proprio di pochi giorni fa. L'unica azienda italiana ad oggi è liberavoi.it, ma non c'è bisogno di andare da un operatore, da un servizio italiano. Basta collegarsi a www.inum.net, vedere i partner dell'iniziativa, tra cui ci sono servizi come GiaGia o come Ribbit o come TruePhone, eccetera, che forniscono i propri servizi a tutti gli utenti del mondo. Beh certo, insomma, se la presenza è locale ma la relazione è internazionale, è sufficiente rivolgersi a una istituzione internazionale, quindi un'azienda che, come succede su internet, si rivolge a tutto il mondo. Bene, Alessandro, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro buon lavoro, a presto. Grazie, buongiorno a tutti. Adesso noi ci fermiamo per un minuto, una breve pausa, poi parleremo di dati e della capacità di alcune aziende, alcuni servizi di recuperare i dati che forse molti in alcune condizioni, in alcune situazioni avevano già considerato persi. Certo, noi suggeriamo sempre e consigliamo di preoccuparsi di fare sempre il backup, di salvare sempre i dati, ma questo a volte non è sufficiente, ci possono essere degli eventi straordinari per cui i nostri dati vengono danneggiati o comunque noi li consideriamo persi. Beh, c'è sempre una speranza. Adesso al 2024 parliamo di dati, fondamentalmente ci occupiamo di dati. Questo è un tema che affrontiamo con una certa regolarità perché, come abbiamo detto più volte, i dati stanno diventando, già da tempo lo sono, ma stanno diventando sempre più importanti non solo nelle aziende, non solo nelle grandi istituzioni, ma anche nelle nostre case che si stanno veramente riempendo di dati. Ci sono case con molta capacità di archiviazione. Saluto Paolo Salin, che è Country Manager di Crawl on Track Italia. Benvenuto 2024. Grazie. Voi avete forse un nome non molto conosciuto, ma nell'ambiente, poi spieghiamo anche di quale ambiente stiamo parlando, un nome ben conosciuto. Voi vi occupate di recupero dati, poi anche di un aspetto molto interessante, molto particolare e molto importante, che è quello della cancellazione dei dati. Di che cosa vi occupate? Io ho detto recupero dati, in che senso? Sostanzialmente, recuperare i dati significa poter intervenire ogni qualvolta un supporto di memorizzazione si sia rotto o ogni qualvolta un utente abbia fatto, diciamo, dei pasticci e abbia, diciamo, reso non più disponibili le informazioni. ci si accorge che è possibile perdere i dati quando si perdono e magari a volte si pensa che sia troppo tardi, in realtà non lo è. Noi diciamo spesso anche 2024, insomma, che una delle buone regole per naturalmente le aziende in primis, ma anche oramai nelle nostre case, pensiamo a quanti dati importanti, le fotografie, qualche video delle vacanze, anche dati, documenti che abbiamo scritto, che abbiamo realizzato, sono importanti e quanto appunto sia necessario porre attenzione al salvataggio. Quindi diciamo sempre fate il backup dei vostri dati, eccetera. Però purtroppo non sempre queste cose vengono fatte, oppure a volte succedono, insomma, problemi che non sono controllabili dalle persone. Quando, beh, innanzitutto diciamo, che tipo di problemi possono capitare? Ma i problemi possono essere sostanzialmente legati ad un guasto dell'hardware. Non dobbiamo dimenticarci che la maggior parte dei dati sono ancora ad oggi memorizzati su hard disk. Gli hard disk sono delle componenti elettromeccaniche, quindi sostanzialmente pensiamo all'hard disk come ad un sistema dotato di un motore ad altissima rotazione e con sopra dei piatti che contengono i dati. Questo sistema è chiaramente soggetto ad usura. Si può rompere, insomma. Si può rompere, si può danneggiare e non esistono, diciamo, dei centri che possano andare a fare una manutenzione degli hard disk, perché sono dei componenti estremamente sensibili, estremamente critici e possono essere trattati e gestiti solo in ambienti specifici. Poi possono succedere anche cose spiacevoli, che ne so, incendi, alluvioni, eccetera, eccetera. Di tutto e di più, potrei dire. Anzi, ogni anno Crolontrack redige una statistica di quelli che sono i casi apparentemente più strani di perdita di dati e devo dire che ne abbiamo veramente per tutti i gusti, dagli animali domestici che si sono nutriti di chiavette USB a persone che si sono scordate il portatile all'interno del forno e quando sono rientrate per scaldarsi la pizza hanno cotto il portatile. Diciamo che veramente ce n'è per tutti i gusti. Per darle anche, per inquadrare un po' quella che è la dimensione del fenomeno della perdita dei dati, possiamo citare un paio di statistiche. La prima è stata fatta agli IT manager, quindi ci siamo rivolti al mondo aziendale e abbiamo chiesto qual è la loro percezione nell'ambito della perdita dei dati, ossia di non avere più dei file a loro disposizione. Il 25%, quindi 1 su 4, prevede che nel corso dell'anno perderà almeno una volta i dati. Quindi senza dubbio è una percezione diffusa. Cioè, non sono molto fiduciosi del proprio mestiere o comunque insomma, della propria infrastruttura IT, hardware, eccetera. No, non la vedrei in questo modo. Direi che sono molto consapevoli di quello che è il rischio. Come lei ha detto giustamente prima, fare il backup è doveroso, anzi lo raccomando a tutti, perché senza dubbio riduce l'esposizione al rischio di perdere i dati. Però non lo va mai ad eliminare completamente. Il peggior nemico e la principale causa di perdere i dati, della perdita dei dati, è sottostimare il rischio, è pensare di essere immuni. Questa è veramente la principale causa di perdita dei dati. Pensiamo poi anche a quelli che sono la situazione dal punto di vista dell'hardware che andiamo ad utilizzare. Anche qui una statistica da parte di Gartner stabilisce che nei laptop, ossia nei computer portatili, il 12% dei laptop si rompe all'interno dei primi 4 anni di vita. E l'hard disk è la seconda componente di guasto. Quindi se noi pensiamo che l'anno scorso sono stati venduti circa 2 milioni e 500 mila computer portatili in Italia, facciamo un po' di calcoli sulle percentuali, vuol dire che abbiamo decine di migliaia di casi in cui si vanno a verificare questi problemi. Senta, quando succede qualche cosa, insomma qualche cosa va storto, esistono appunto delle soluzioni per recuperare i dati. Ci può spiegare come fate per recuperare i dati da, che ne so, un hard disk che si è bruciato assieme ad un computer, un hard disk che è andato sott'acqua o altri problemi, insomma, che lei ci ha anche citato? La componente fondamentale per poter recuperare il dato è quello di essere dotati delle giuste strutture. La struttura principe, perché ci permette di andare a operare sui supporti danneggiati, è la camera bianca. Famosissima camera bianca, famosissima. Insomma. Se uno legge un po' di documentazione relativa al recupero dato, sente nominare questa famosa camera bianca. Io l'ho sempre sentita nominare, non l'ho mai vista, ma che cos'è? Ma la camera bianca è un ambiente particolare in cui si va a ridurre moltissimo la presenza delle polveri. Esistono diversi tipi di camera bianca, vengono definiti come camera bianca di classe 100, di classe 10, di classe 1000. Questo numero 10, 100, 1000 va ad indicare il numero di granuli di polvere che possono essere presenti nell'unità di volume. È un po' la stessa cosa che succede nella fase di produzione dei chip, della lavorazione del silicio, cioè ci deve essere un ambiente estremamente pulito. Sì, per quanto riguarda la gestione dell'hardware danneggiato, l'ambiente può essere un po' più, mi si passa il termine, sporco di quello di produzione dei chip. Per la produzione dei chip si parla di camere bianche classe 10, in alcuni casi estremamente particolari classe 1, ossia dove si deve entrare con uno scafandro, essere dotati di misure di prevenzione assolute. Per quanto riguarda una camera bianca per il recupero dei dati, parliamo di camere bianche classe 100. E in una camera bianca classe 100 pensiamo che l'aria è 10.000 volte più pulita di quella dell'ambiente in cui siamo noi in questo momento. Si capisce che cosa succede in questa camera bianca o è troppo difficile da comprendere? No, possiamo cercare di raccontarlo. La prima cosa che si va a fare all'interno della camera bianca è quella di smontare tutte le varie componenti dell'hard disk per andarne a verificare lo stato in cui si trovano. Qui possiamo avere N situazioni, N problemi, ci possono essere dei problemi legati ad un guasto, ci possono essere dei problemi legati all'usura, quindi tutti i soliti problemi di allineamento dell'albero motore del disco o di posizionamento. Ci possono essere poi invece problemi più traumatici, come quelli che aveva lei prima indicato, quali un incendio, un allagamento. Quindi il primo punto è quello di andare a pulire tutta quella che è la situazione, tutto quello che è l'hardware, dopodiché andare a rimetterlo in funzione. Andare a rimetterlo in funzione a che cosa ci serve? Ci serve per poter estrarre tutte le informazioni che sono contenute sul supporto. Dopodiché noi questo supporto ce lo andiamo a dimenticare, perché per tutelare e per garantire maggior sicurezza nei confronti dei dati del cliente non andremo più a lavorare sul supporto originale, ma andremo a lavorare sulla copia dei dati che noi abbiamo estratto. Sì, qua poi ci sono anche tutta una serie di problemi legali che non andiamo ad approfondire. Se io sono una piccola azienda, anche che ne so, un padre di famiglia che ha sul proprio computer le foto dei miei figli quando erano piccoli e mi succede un problema, insomma non riesco più ad accedere a questo, insomma, al mio hard disk, magari non ho fatto il backup o non l'ho fatto in maniera corretta. Stiamo parlando di una cosa che costa moltissimo e quindi se la possono permettere solo le aziende, o è questi sono procedimenti, diciamo, che sono entrati in una fase di maturità per cui il mercato si sta allargando fin al consumatore finale? Il mercato si sta decisamente allargando, basti pensare che mettiamo a disposizione dei potenziali clienti anche dei software per poter andare a gestire questo tipo di problematiche. Abbiamo soluzioni sono comunque presenti soluzioni sul mercato che partono dal centinaio di euro per poi salire. Quindi insomma alla portata, insomma, di una buona parte della popolazione. Poi dipende anche dal problema. Ci sono fotografie che uno le può perdere, adesso io ho fatto l'esempio delle fotografie, ma insomma ci possono essere anche documenti che uno realizza in casa, magari non stampa e lascia sul proprio computer, che di solito è più sicuro della carta, perché poi la carta prende strade le più varie. Un accenno alla cancellazione dei dati, questo è un aspetto altrettanto interessante, forse poco conosciuto. Vorrei partire da un dato molto semplice, da una constatazione. Quando noi sul nostro computer cancelliamo qualche cosa, in realtà non la cancelliamo, giusto? Esatto. Quando noi andiamo a cancellare qualche cosa dal nostro computer, andiamo semplicemente a rendere nuovamente libero, ossia allocabile, uno spazio di memoria presente sull'hard disk. Quindi dobbiamo un po' immaginarci la situazione di un libro in cui andiamo a cancellare delle pagine semplicemente andando a togliere il riferimento a quelle pagine dall'elenco. Quindi sostanzialmente le pagine e il contenuto sono ancora presenti. Ecco, questo in un semplice computer potrebbe essere poco grave. Se questo computer contiene o conteneva, secondo noi, conteneva dati importanti, che ne so, di un'azienda, anche semplici dati personali che uno ha in casa, e questo computer va in un negozio e poi magari viene recuperato in altro modo, viene riciclato, ecco, quali tipi di problemi possono comportare? Cioè, io non cancello i dati, poi insomma capiamo anche che cosa vuol dire cancellare i dati, che cosa può succedere? Ma può succedere che i miei dati entrino in possesso di qualcun altro. e io questo qualcun altro a priori non posso sapere chi sia. Sì, io ricordo un caso, vabbè, poi alcuni casi diventano famosi anche, persone, anche perché sono eclatanti, però di una persona che sistematicamente andava a comprare computer usati, controllava il contenuto degli hard disk, in alcuni casi hard disk che erano stati in teoria cancellati, in altri casi no, e questa persona negli Stati Uniti ci ha trovato numeri di carta di credito, tantissimi numeri di carta di credito. Però senza arrivare a questi eccessi, questo è un problema che si può incontrare anche, insomma, anche in Italia. Che cosa significa poi cancellare in realtà i dati? Cioè cosa fate voi e che cosa potrebbero fare poi molte aziende, molte persone anche in Italia? Cancellare i dati viene definito a livello normativo, quindi viene regolamentato come si devono cancellare i dati, e sostanzialmente esistono soltanto due possibilità per cancellare i dati o per cancellare i file. La prima è quella di utilizzare dei software di sovrascrittura, quindi in pratica si va a sovrascrivere completamente il contenuto dell'hard disk. In questo caso, utilizzando dei prodotti appositi basati su algoritmi particolari, non si rende poi più possibile andare ad effettuare un recupero dei dati anche utilizzando delle soluzioni professionali. La seconda possibilità per la cancellazione dei dati è sottoporli ad un forte campo magnetico. Campo magnetico che però deve avere delle particolarità ben definite, e quindi anche per questo esistono degli hardware specifici che permettono di fare questa cancellazione sicura. Bene, io ringrazio Paolo Salin per essere stato con noi in questa puntata, per averci anche raccontato e aperto una finestra su un mondo che penso ben pochi conoscano. Grazie, a presto, buon lavoro. Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori. E così concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con la nostra redazione: 2024 2024 @radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, vi ringrazio per l'attenzione, grazie anche a Luigi Borghi in redazione. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre il sabato, nel pomeriggio di Radio 24, tra le 15.30 e le 16.30, oppure online, www.radio24.it, tutte le informazioni per scaricare il nostro programma, anche grazie al servizio podcast. Appuntamento tra 7 giorni. You are disconnected.